Signore e signori, Madame e Monsieur, arrivato. Lo presento l'artiste, artiste. Gigi D'Agostino, Le Nouvelle Martel. Tel è bello. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Mica pistacchi. Sti cacchi. Dov'è il vocalist? Eccomi! Dai far annuncio. Gigi! Dai far annuncio. A cosa? Ero distratto. Ah, che cazzemma. Se volete mandare le vostre dediche, il numero di SMS. Il numero di SMS è 333-64-67-662. Sono Maria da Bologna. Vorrei dedicare un brano al mio amore Leonardo. Volevo salutare l'amore della mia vita. Scegli una canzone che esprima tutto l'amore che ho per lei. Tutto l'amore che ho per lei. Ti amo, Chiara. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo da quando ci stiriamo. Non so cosa vuol dire amore, forse vuol dire sentirsi vivi, forse vuol capirlo. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo.

Non è. Ci vediamo a Bressanone. Non è. Non è. Ne. Ci vediamo a Bressanone. Non è. Non è. A cosa? Ci vediamo a Bressanone. Ci vediamo a Bressanone. Muovete. Gigi, ci vediamo a Bressanone. Alla discoteca. Alla discoteca Max. Livio. Ti devi lasciar prendere dal passo. Passo. E imboccare quel sentiero che ti indica. Che ti indica. Il ritmo. Il ritmo. Bella Gigi. Ti devi lasciar prendere dal passo. Passo. Passo. Passo. Ritmo. Ritmo. Ritmo. Ritmo. Passo, passo, passo, passo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo. Sono Alex da Pavia. Alex da Pavia. Alex da Pavia. Alex Ale da Pavia. Sono Alex da Pavia. Alex da Pavia. Alex da Pavia. Alex Ale da Pavia. Sono Alex da Pavia. Potresti mettere passo felino? Ovvio. Passo felino. Passo felino. E dedicarla ai Brex DJs che ti seguono sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Fermale.

almeno Oggi compio 19 anni e se tu mi dedicassi una delle tue canzoni, quello sarebbe il regalo più bello. Sì, sì. Sembra banale, ma è reale. Ma io sta a fare, ma io sta a giocare qua. Ah, cazzo. Ricky da Como. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Tonight, sono Carme di Lonate. Ogni giorno percorro insieme a te il cammino. Fammi ascoltare Manovella. Certo. Sì. Questo è il cammino che ci gira intorno. Caffè. Io qua c'ho da suonare anche, non è che posso stare qui, ricarico un chiglione. Muovete. Vabbè, allora lo suono. Ivan da Torino. Vorrei ascoltare Gain. La dedico a tutti gli economisti dell'Università di Lecce. M2O. Musica allo stato puro. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. Oggi già. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, mica noccioline. È chiaro, no? Dai un po'. You let me down so many times that I forgot the very first. It's time to stop this useless relation. It's not good. We'll be right back. Dov'è il vocalist? Io ci sono. Ci sono anch'io, eh. Uno dei due. Prime donne, no? Appunto. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello questo sabato alla discoteca Max. Max. Bressanone, Bolzano. Domenica 8 ottobre alle 15, Gigi D'Agostino sarà a Vicenza, discoteca Nord-Est, Caldogno. Spiegazione finita. E viva la vita. Chi stuca meno? Di Gigi D'Agostino. Dedico baci e abbracci a Sara. Mi manca tanto. È la donna della mia vita. Claudio da Genova. Zanetta da Roma. Volevo dire ad Alessandro, che mi ha reso la ragazza più felice del mondo, di non chiedermi mai quanto ti amo. Perché? Perché appunto? Perché dovrei spiegarti perché vivo. Sì, vabbè. Ipnotico elettronico. Melodico. Romantico sinfonico. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Se hai l'impulso mi scrivi, se no desisti. I drive around all day long, I listen to radio songs, I'm taking heart to become what you want for your life. I stop and talk with you, a little help from the moon, only a few words I will say, God help me, I have to pray. Deep in my heart, I stumble over your smile. I'm taking your heart to become what you want for your life. Shine on the crazy diamond ring. Don't you wanna marry me? In my heart, the drum, there's only il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Passetto ad Aaron Mi 83 da Uomo Vaso. Ragazzi, ci sono dei nomi che a coso? Non mi ricordo cosa dovevo dire. We'll be right back.

cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarre.